fredda copre il mondo come neve. Dal mare nella nebbia il barrito di una nave squarcia il lucido silenzio di un mattino di dicembre. Sopra i monti incombe un cielo pesante come marmo. Di nuovo l'inverno, di nuovo l'inverno è tornato. Sembra che si viva col timore che il tempo rubi in questi giorni di luce breve. Alla vita ore preziose, ore che non torneranno, scivolate, date in cambio come perle alle speranze del nuovo anno. Il vivere è un lento rincorrere sempre l'estate. Ma a volte inaspettatamente, in mezzo a giorni tutti uguali, un sole schietto annienta la malinconia. E in quell'effimero tepore oziano i gatti sulla strada, sprovvedutamente nei campi qualche fiore sbaccia nel timore che non ritorni marzo. Sciocche e inutili mi sembrano le cose umane in cui ci adoperiamo, gli affanni quotidiani, questo assistere distratti da utopie confezionate, guizza premi, lotterie, le diozie domenicali, ed ogni anno muore un poco lo spirito del tuo Natale. Scende e sembra non finire, sulle strade ci si affretta, le luci accese delle case sono fuochi caldi a cui tornare, o forse solamente l'illusione di un domestico piacere. Nell'aria l'antico profumo che fanno i camini, tutto è immobile in attesa, solo a tratti da lontano abbaia un cane, un treno passa e fugge via. Il cielo è un vuoto oltre le nubi, smisurato e freddo, dentro cui viaggiamo, proiettati eternamente, lungo un ciclico ritorno, o incontro a un infinito niente. In questa calma senza pace, dolcemente ci assopiamo, per risvegliarci ancora, dentro un altro giorno uguale, di un inverno ancora lungo. Prima o poi ripasseranno, lo sappiamo, i giorni buoni, ci stupirà di nuovo il miracolo delle stagioni. Passeranno, lo sappiamo, i giorni buoni, ci stupirà di nuovo il miracolo delle stagioni.